Ma io dico due cose velocissime perché appunto sono tante le implicazioni per quanto mi riguarda, ci riguarda come animatori della Terra Trema, insomma. Uno è appunto che siamo ancora qui con una serie di compagni di viaggio che abbiamo conosciuto 10 anni fa, quando poco o nulla conoscevamo di vino. Oggi ancora abbiamo tanto da imparare, ma forse tanto abbiamo da raccontare, perché sono state tante le persone, i vignaioli, gli agricoltori, i contadini, le persone che ruotano intorno al mondo del vino, che abbiamo conosciuto e che ci hanno dato, insegnato tanto, e pensiamo anche noi di aver raccontato una storia forse lontana, una storia dalle caratteristiche prettamente metropolitane, insomma, in uno spazio del genere, in spazi come questo, come il Folletto di Abete Grasso. E quindi oggi è così, per noi c'è forte emozione, ma siamo contenti di fare questa presentazione con l'idea appunto di ricordare che una persona che noi della Terra Trema abbiamo sfiorato, che però poi abbiamo incominciato a studiare, a vedere che cosa diceva questa persona, e abbiamo capito che aveva tanti amici, amici con cui poi a un certo punto hanno deciso di portare un pezzo di agricoltura, non so, di territori, di storie, di pratiche, di prodotti, produzioni all'interno di questi spazi. E penso che sia stata una delle intuizioni migliori che ci sia mai stata negli ultimi 10 anni per chi attraversa luoghi di questo genere, e penso che siamo riusciti a parlare e a dare una bella scossa a tutto il mondo del vino e al mondo dell'agricoltura. Quindi buona serata, buon incontro, buone letture, buone chiacchiere, in alto i calici.